9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 4 di giugno. Due temi, il primo è quello che trovate sul giornale di oggi. Secondo le ricostruzioni è un caso di cronaca, una tragedia in realtà dovuta a problemi psichici di questo assistente di Monsignor Luigi Padovese, il vicario apostolico in Anatolia, assassinato. Era colui che aveva celebrato la cerimonia per la morte di Don Santoro, sicuramente invece a sua volta vittima ma dell'estremismo e del fanatismo islamista in Turchia, ricordate. E dalla notizia di oggi però noi andiamo subito alla notizia di qualche giorno fa, della quale non ho voluto occuparmi all'indomani. Sto parlando naturalmente dei 9 morti che hanno perso la vita a seguito dell'intervento posto in essere da forze speciali israeliane sulla cosiddetta flottiglia di pace. Dico cosiddetta perché io avevo fortissimi dubbi dopo le prime notizie di quella tragica notte che davvero si trattasse di una flottiglia di pace. Seguo da anni la vicenda in Medio Oriente, tento di farlo al di là delle prime impressioni che quasi sempre nella vicenda di chi si oppone allo Stato di Israele negandone il diritto all'esistenza, quasi sempre le notizie, tanto più sono drammatici gli sviluppi, vengono pilotate da chi le ha immaginate e prodotte. Questa è una regola che vale sempre nelle informazioni, vale in particolare quando vi sono vicende che riguardano l'attrito, lo scontro, le incomprensioni e in periodi, ohimè, più brevi della storia, delle trattative tra Israele e chi si oppone alla sua esistenza. E poiché a bordo di quella flottiglia sedicente pacifista erano, a mia conoscenza, moltissimi coloro che si dichiarano pregiudicamente contrari al diritto all'esistenza di Israele, che per me invece, lo dichiaro subito, è una condizione pregiudiziale per la quale guardo a favore di Israele e della sua grande democrazia, avevo dei dubbi sulle prime ricostruzioni. Ora ci occupiamo, al ritorno anche in Italia, di coloro che erano a bordo di quella nave turca, la Marmara, e mentre nei 3 giorni intercorsi allo sdegno del mondo unilaterale contro i pirati israeliani si è potuto però aggiungere qualche elemento concreto di ricostruzione in più di quello che è avvenuto, chiediamo anche a voi di dirci a questi microfoni 800240024 come la pensate, una volta che avete letto e riletto i giornali di questi 3 giorni e appreso qualche particolare in più. E la domanda è molto semplice: è Israele davvero quella che si è comportata come un pirata che spara alla cieca? Oppure, banali domande, come mai la Marmara aveva rifiutato l'ispezione, visto che a bordo non ci doveva essere niente di particolarmente rilevante se non medicinali, cibo, eccetera. L'ispezione che gli israeliani avevano chiesto al posto di Ashdod per poi procedere all'inoltro di ciò che era a bordo nella striscia di Gaza, come avviene peraltro ogni giorno. Se voi immaginate che il blocco di Gaza sia un blocco per cui la gente non ha medicine, cibo, eccetera, sbagliate, perché state aderendo a una visione di parte. Ogni giorno ci sono camion su camion che passano, però intanto quelli avevano detto no. Poi perché abbiamo dovuto aspettare qualche giorno prima di capire che cosa c'è davvero questa fondazione turca che ha animato questa spedizione, quali sono i suoi legami con Hamas, col jihadismo, eccetera, eccetera. Come mai abbiamo letto delle ricostruzioni per le quali gli israeliani sparavano all'impazzata, mentre poi dai primi filmati, dalle testimonianze concrete, visive, ecco, non solo dai racconti di chi era di là, ovviamente, io lo rispetto, ma una visione di parte, si vede chiaramente che quando i militari israeliani scendono dalle corde, dagli elicotteri, eccetera, vengono presi, coperti di botte, malmenati, buttati in stiva, che questa situazione procede per minuti e minuti, ad alcuni vengono strappate le armi. E vi chiedo qual è la vostra opinione una volta che queste immagini hanno chiarito che le cose sono andate un po' diversamente da prima. Non lo so, io ho molti interrogativi, non nascondo come la penso. La mia opinione è che noi abbiamo una difficoltà sempre ad avere a che fare con Israele, perché Israele, a differenza degli altri paesi occidentali, fine della mia introduzione, ha una buona regola. Questa buona regola è diffidare ex ante chiunque Israele giudichi che attenti alla sua sicurezza, dicendogli prima: ti diffido, fermati, alt, se vai avanti e metti in atto un comportamento lesivo della mia sicurezza, io ti farò questo e quell'altro. La differenza è che Israele, a differenza di tutti gli altri paesi, dopo averlo detto, lo fa. E a questo punto diventa intollerabile per la nostra coscienza di occidentali democratici che a seguito di una diffida vi sia un paese che faccia concretamente quello che ha diffidato dal porre in essere atteggiamenti lesivi della sua sicurezza. Questo atteggiamento è per noi intollerabile ed è per tanti versi comprensibile, però per Israele questo atteggiamento si sintetizza da sempre nel suo diritto alla esistenza in sicurezza, una sicurezza molto attentata. Comunque so che le opinioni sono molto diverse, passo la mia parola ai testimoni di oggi. Io ho voluto semplicemente, per onestà con gli ascoltatori, dichiarare che ho un punto di vista, perché non mi va di per passare per finto indifferente su una vicenda come quella che riguarda un grande paese democratico. Vedo che le reazioni arrivano subito, c'è chi mi definisce un Sion fascista, ma insomma, bisogna sapere che quando si trattano questi argomenti bisogna avere un certo tipo di onestà intellettuale nel dichiarare come la si pensa e nell'esporsi a tutte le reazioni. Allora, i nostri ospiti di oggi sono, da una parte, Fiamma Nierenstein. Buongiorno Fiamma. Buongiorno. Dall'altra Marta Ottaviani, che è collaboratore del Sole 24 Ore dalla Turchia. Buongiorno Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Roberta Pinotti del PD. Buongiorno, buongiorno Roberta Pinotti. Allora, comincerei brevissimamente da un flash a testa sul dibattito parlamentare che si è tenuto ieri dopo la decisione italiana, che è una decisione che ha fatto discutere naturalmente il Parlamento. A voi, cioè a Fiamma Nierenstein e a Roberta Pinotti, l'opinione, l'impressione di come è stato questo dibattito in Parlamento, se è stato un dibattito più sereno e disteso di fronte ai nuovi fatti emersi, e intorno alla scelta assunta dal governo italiano. Fiamma Nierenstein. Direi che il dibattito è stato molto equilibrato da tutte le parti, interessante, e soprattutto insomma ha dato conto di quella che è la posizione dell'Italia, con cui l'opposizione mi pare si sia detta sostanzialmente d'accordo, perché andare un'altra volta, andare insieme al Consiglio per i diritti umani dell'ONU, che ha votato questa presa di posizione per un'indagine internazionale sulla questione, prima di tutto significava mettere in questione la capacità di Israele, che è un paese ultrademocratico, quando dico ultra nel senso perché la discussione serve in maniera tante volte persino mortale, cioè le parti si scannano sotto gli occhi di tutti, e quindi anche su questa faccenda c'è già in corso un dibattito e anche un'inchiesta che anche stamattina porta a nuove scoperte interessanti, su cui suppongo, Oscar, che poi vorrai farci delle domande, perché ci sono altri elementi oltre a quelli che venivi molto bene esponendo, tutti elementi che vanno nella direzione appunto di una trappola. Non dubito che ci fossero anche dei pacifisti di buone intenzioni sulle altre 5 navi, sicuramente la Marmara era una specie di nave ammiraglia armata da questo soprattutto da questo IHH, questa organizzazione che fa capo ai fratelli musulmani, che è molto amico di Hamas. Quando dico amico di Hamas intendo amico d'arme, amico di denaro, amico di violenza, e questo ha dimostrato, insomma, questo stanno dimostrando ora anche le perquisizioni che fanno vedere appunto che sulla nave c'erano armi che vanno oltre le spranghe e i coltelli, e che tre, questo lo riporta la televisione, la radio palestinese, tre di questi che sono poi stati colpiti sulla nave, non so se sono morti perché ancora la cosa è difficile da capire, avevano giurato che sarebbero stati martiri nel nome di Allah, sono lì con i nomi e i cognomi, e anche loro oggi sono reperibili su tutti i siti. Ritorno al dibattito parlamentare, io credo che ci sia stato appunto via via che le prove venivano avanti un ripensamento complessivo. Israele non poteva lasciare entrare una nave come la Marmara, non poteva fare arrivare una nave come la Marmara alle coste di Gaza, perché Gaza è occupata da Hamas, soprattutto con un colpo di Stato illegale del 2007, piena di armi puntate su Israele, che sono state sparate nel numero di 6.000 negli ultimi anni. Ci sono state ben due navi, la Karine Air e la Frankop, cariche di armi che sono state intercettate recentemente. Israele non poteva certo permettere che questo accadesse. Se poi ci sono stati errori tecnici nell'abbordare la nave, questa è una questione tutta aperta che Israele stessa sta dibattendo con tutte le sue forze. forze è un'altra questione, ma Israele, diciamo così, applicava alla Karinei e alla Franco le stesse misure che Kennedy applicava quando si sapeva che le armi russe arrivavano a Cuba nei confronti di Cuba. Questa è la situazione. Il mondo considera Israele sempre in maniera diversa e con un doppio standard rispetto agli altri paesi. È corso troppo nel condannare immediatamente. Mi sembra che ora anche il dibattito alla Camera abbia riflettuto, insomma, un atteggiamento più adeguato. Bene, torniamo poi con Fiamma poi sui particolari di quello che è emerso e come è potuto avvenire le vittime 8 turche e un americano turco. Pinotti, senatrice Pinotti, che pensa del primo impatto della vicenda, in realtà poi di tutta la complessa, il complesso set, come si fa a trattare tra Israele e Hamas, i passi indietro? Io stolineo a chi manda messaggi del tipo: che cosa pensate, che ha mandato una flotta di invasione alla Turchia? No, però guardate, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione sulla Turchia. La Turchia ha cambiato gradualmente politica in maniera molto netta col governo Erdogan. L'Europa ha colpevolmente ignorato non tanto il nostro paese, che era a favore dell'ingresso della Turchia in Europa, ma i contrari hanno in qualche maniera aiutato un'evoluzione turca che, da paese che ospitava i negoziati riservati tra Israele e Siria per il Golan, come è stato negli ultimi anni, è diventato un paese che, da dopo l'operazione di Gaza, sempre più nettamente ha cambiato politica, perché è legittimamente obiettivo del governo Erdogan e del suo partito in Turchia quello di diventare un paese molto più addentro alle vicende dell'islamismo e di come esso influisce gli altri paesi musulmani, fino a raggiungere un accordo con l'Iran, traguardato dal Brasile poche settimane fa, sul materiale fissile nucleare dell'Iran, che è avvenuto all'insaputa, pare, di Washington e che sicuramente in Israele è stato considerato uno sviluppo epocale nel teatro. Dico questo, senatrice Pinotti, perché molto spesso i media italiani questi aspetti sono molto trascurati. Prego a lei, che impressione ha di tutta questa vicenda, di qual è la posizione politica del nostro paese, dicendo no all'indagine internazionale perché Israele è una democrazia che può farla da solo, ed è anche delle relazioni politiche nel Parlamento italiano? Sì, io mi scuso in anticipo perché purtroppo fra pochissimo dovrò lasciare la trasmissione per un impegno precedentemente assunto, quindi cercherò di condensare un po' nella risposta a questa domanda tutto il mio. Mi avevano detto che c'ha altri 7 minuti che le lascio integralmente. Sì, d'accordo. Io sono stata recentemente in Israele proprio con Fiamma Nirstein, con l'associazione parlamentare Amici di Israele. Parto da questo per dire che un punto che toccava anche Fiamma, che ha toccato anche lei nell'introduzione, rispetto ad esempio al funzionamento della giustizia in Israele, alla qualità giuridica, diciamo, dello Stato di Israele, è un elemento che ho potuto constatare con mano. Parto da questo per dire però che la situazione che si è creata è una situazione molto difficile per Israele. Io ho capito anche psicologicamente, anche diciamo l'introduzione che lei ha fatto mi ha riportato un clima che io ho respirato nel mio viaggio ad Israele. Ma quello che è successo con questo attacco è negativo da tutti i punti di vista, anche per Israele stesso, perché il problema. I rapporti con la Turchia sono sempre stati rapporti positivi che si stanno deteriorando, ed è corretta la ricostruzione che lei ha fatto anche dell'evoluzione che la Turchia sta avendo. Ma da questo punto di vista, soprattutto rispetto alla preoccupazione principale di Israele, che è la preoccupazione dell'Iran, il fatto comunque di aver agito con quella modalità rispetto a navi che la Turchia aveva detto avere perquisito è un elemento che ha, come vediamo, purtroppo reso molto più difficile. In questo momento sono stati interrotti anche, noi sappiamo che Israele e Turchia hanno rapporti da tutto il punto di vista, anche per quanto riguarda per esempio la politica degli armamenti, per quanto riguarda l'energia, il settore idrico, quindi da questo, anche dal punto di vista materiale si stanno interrompendo delle relazioni, ma il problema principale è il significato simbolico del fatto di creare un problema forte con un chi poteva essere un alleato in una situazione da innescare contro quella che sono le minacce che vengono dall'Iran. Allora, da un punto di vista militare, ecco, parliamo semplicemente, non si capisce come è avvenuto questo tipo di arrembaggio. Io tra l'altro ho visto da subito un video che forse sta girando soltanto adesso, amici diciamo ebrei che me lo hanno inviato, e su questo sottoscrivo il fatto che toglierei la parola pacifisti per riferirsi a coloro che stavano su queste navi, perché ci sono immagini molto forti di come vengono assaltati i soldati israeliani. Dico questo però perché mi consente di dire che io ho trovato sbagliatissima l'azione da un punto di vista, diciamo, militare, da un punto di vista strategico, perché avviene, diciamo, non si capisce ancora, ma sembra che avvenga in acque internazionali, e lo trovo dentro un atteggiamento tutto di difesa attraverso la forza con il quale Israele in questo momento sta sbagliando. Cioè io sono terrorizzata, diciamo, dall'ondata di antisemitismo che subito dopo questo avvenimento è nata, e dimostra il fatto che questo è un elemento che in qualche modo è sopito e c'è, ed è un problema grave. Ma se l'azione di Israele è quella di pensare di farcela da sola, di farcela con la forza, questo è un elemento sbagliato. Guardi, io penso che l'elemento, per esempio, dell'embargo a Gaza sia stato sbagliato, lo diceva Grossman, lo dicono anche molti, diciamo, molti israeliani. Oggi, ad esempio, in Israele, alla richiesta se questo tipo di operazione che è stata fatta rispetto a queste navi è stata un'operazione da un punto di vista militare corretta, so che la maggioranza sta dicendo di no, perché alcune critiche che sto portando io in questa trasmissione sono condivise anche da gran parte dell'opinione pubblica israeliana. Come no? Lo dico perché da questo punto di vista io capisco il bisogno di sicurezza di Israele, ma ritengo che la logica, diciamo, del chiudersi a guscio sia un elemento che non aiuta in questo senso. Allora, la questione di Gaza e il fatto dell'embargo, io non credo che abbia creato più sicurezza ad Israele. Credo, è vero che passano i medicinali e passano altri viveri, però rende più difficile la vita, come è stato così per i vari checkpoint che imponevano ai palestinesi code lunghissime per entrare in Israele, e vanno a incidere sulla vita quotidiana di persone che spesso non sono, diciamo, gli aderenti di Hamas o non sono quelli che fomentano la violenza nei confronti di Israele, ma in questo modo invece facendo crescere sì il risentimento e quindi creando potenzialmente altre situazioni, diciamo, possono innescare, diciamo, militanze negative, militanze anche terroristiche. Allora, da questo punto di vista, io, sapendo che invocare, diciamo, il dialogo di due popoli e due stati sembra un po' un mantra in qualche modo ripetuto, però nella simpatia e nell'attenzione, diciamo, a quello che è, che lo Stato di Israele è e ai problemi che può avere, io oggi non mi sento che condannare con forza il fatto che Israele stia provando a risolvere questo con azioni di questo tipo, perché aumenta l'isolamento di Israele anche rispetto all'inchiesta internazionale. Sono partita da una premessa dicendo che per quello che ho potuto vedere, diciamo, la capacità di Israele di essere della Corte Suprema di Israele di essere estremamente, diciamo, lucida e autonoma nelle proprie decisioni è molto elevata. Ma nonostante questo, io in questo caso avrei accettato l'indagine internazionale, pur venendo da quel Consiglio dei diritti umani che ha avuto in passato, diciamo, un atteggiamento che poteva essere considerato un po' di parte rispetto a Israele, perché mettendo in questo momento, secondo me, Israele davanti agli occhi del mondo si è messa da una parte del torto, sono morte 9 persone e poteva essere assolutamente evitato questo. Allora io avrei dato un atteggiamento diverso, così come oggi spero che questi segnali che Netanyahu sta dando di una disponibilità, diciamo, di sciogliere in parte l'embargo, comunque far sì che sembra navi della NATO, comunque attraverso anche i contatti internazionali ci possa essere un controllo che diventa comunque meno problematico rispetto alla vita quotidiana, sia un primo passo. Però il gioco profondo è se Israele punta di nuovo, diciamo, a creare dei legami internazionali che la possono far uscire dall'isolamento e prova a rigiocare la partita del capire come costruire un futuro. Mi rendo conto che con Hamas al potere, che nega l'esistenza stessa di Israele, è complicato, ma non vedo altre strade che la possibilità comunque di ripartire, ad esempio con Abu Mazen, per quanto sia molto, diciamo, indebolito all'interno del sistema palestinese, però non vedo altra possibilità, perché il chiudersi nella difesa ex ante, come diceva lei, che che ho visto, che ho capito che è nello spirito in questo momento Israele, però innesca meccanismi di rifiuto, innesca meccanismi pur di isolamento internazionale e rende più difficile la possibilità di Israele, diciamo, di vivere con la prospettiva di essere più sicuro. Grazie alla senatrice Pinotti. Naturalmente l'evoluzione di tanti anni di Israele con le forze che sono contrarie alla sua esistenza e che non la raffigurano neanche sulla carta geografica a tutti i propri bambini è molto complicata. Noi abbiamo un bel augurarcelo, però con chi lavora dichiarando che ti vuole uccidere è molto difficile convivere, perché qualunque cosa faccia, qualunque sia la sua azione in organi internazionali, qualunque sia il volto che offre deliberatamente ai media occidentali servendosene, il suo obiettivo è ucciderti, il suo obiettivo è annullarti, il suo obiettivo è sterminare il popolo di Israele. Allora, o ricordiamo questo, e mi dispiace che molti ascoltatori, a chi lo ricorda in questa trasmissione, riservino infamanti insulti attraverso gli SMS, perché questo è il problema. Troppi vogliono non sentirselo dire che coloro che, come Hamas, continuano a dichiarare come obiettivo deliberato la distruzione di Israele, vanno presi sul serio. Non vanno presi come simpatici portatori di un'opinione politica, come in Italia è legittimo esprimere, dall'estrema sinistra all'estrema destra, nell'arco parlamentare e anche fuori dall'arco parlamentare, e ci mancherebbe. Sono forze che hanno armi, che sono ispirate, finanziate, armate da potenze della regione come l'Iran, che ogni giorno deliberatamente lavorano per uccidere Israele e i suoi cittadini. Mi dispiace che dirvelo provochi queste reazioni che sto vedendo. Io penso che sia sano realismo non dimenticare questa storia, senza per questo dire che c'è una ragione tutta unilaterale di qua, o che è giusta l'azione dei SEAL per cui sono avvenuti 9 morti, se c'è stata una proporzione, però di sicuro, ripeto, quando Fiamma Nierenstein vi diceva che alcune delle vittime con certezza sono note a chi si occupa di queste vicende, vi leggerò cosa si legge sulla stampa internazionale di loro, il che non significa naturalmente che io legittimi il fatto che siano morti, era meglio che fossero vivi. Eccoci tornati in studio e riprendiamo da dove abbiamo cominciato, cioè dall'assassinio in Turchia di Monsignor Padovese, vicario apostolico in Anatolia, con Marta Ottaviani, a cui chiediamo se nella stampa turca di oggi, nelle reazioni a questa vicenda, è una semplice vicenda di cronaca, come si dice, perché il suo collaboratore familiare, il suo autista, aveva problemi psichici, oppure se in qualche misura è una vicenda che in qualche misura, ripeto, non so dire in quale, perché dai giornali italiani non si capisce molto bene, va inquadrata nel contesto che portò poi anche all'assassinio di Don Santoro per una pressione crescente che nel nazionalismo da una parte e dall'altra però nell'islamismo, che è l'elemento di fondo poi del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, l'AKP del leader Erdogan e poi del presidente Gül, abbia contribuito a questa atmosfera. Che, qual è l'impressione sulla stampa turca all'indomani, Marta? Ma tutta la stampa turca concorda nell'affermare che la valenza politico-religiosa di questo sia una delle ipotesi meno attendibili in questa ennesima tragedia che ha colpito il paese, anche perché, lo ricordo, ieri tanto le autorità turche, quindi il governo e la prefettura di Iskenderun, dove Monsignor Padovese è stato assassinato, tanto anche alcune autorità del Vaticano, quindi il nunzio apostolico Lucibello, hanno subito, per così dire, gettato acqua sul fuoco, quindi detto che si poteva appunto trattare di un delitto dettato dallo squilibrio mentale dell'assassino, che sembra negli ultimi tempi soffrisse di una depressione molto profonda, molto accentuata, e i giornali turchi proprio oggi, quasi a confermare un po' questa ipotesi, che comunque non è ancora confermata al 100%, hanno pubblicato la notizia che il 28 maggio scorso questo ragazzo, il cui nome corrisponde a Murat Altun, avesse anche riportato, ecco, una perizia psichiatrica all'ospedale di Iskenderun, proprio per le turbe psichiche che lo caratterizzavano negli ultimi tempi. Marta, l'organizzazione della flottiglia, per così dire, della pace, e poi la nave Marmara, su cui è avvenuto poi il blitz da parte israeliana con le 9 vittime, nei media italiani un po' si tende, non si presta molta attenzione attenzione all'evoluzione che ha avuto la politica turca sotto il governo Erdogan da dopo Gaza, insomma, nei confronti di Israele. Verso Israele la posizione tradizionale assunta negli anni precedenti dai militari turchi, che nei mesi a nostre spalle sono stati abbondantemente massaggiati dal governo Erdogan, con stati arresti di massa sotto l'ipotesi di, tra le gerarchie militari, sotto l'ipotesi di tentativi colpi di Stato e così via. Fatto sta che il governo Erdogan, prendendo un po' atto che l'Europa non è più la prospettiva di approdo turca, ha modificato molto sostanzialmente questa posizione che era di tradizionale, di forte amicizia, di cooperazione anche su programmi militari tra Turchia e Israele, e al punto tale che appunto non era un mistero per nessuno che si ospitavano triangolati e riservati negoziati con i siriani e gli israeliani per il Golan. E invece ora siamo a nulla sarà più come prima, pronunciato dal presidente Gül, e siamo soprattutto all'accordo sul materiale fissile con l'Iran attraverso anche la benedizione del Brasile di Lula, che ha naturalmente in Israele creato l'impressione che siamo di fronte a un quadro di rapporti totalmente diverso. Questa politica del governo Erdogan nei confronti di Teheran come si inquadra e come viene considerata dai media turchi, dalla società turca, al di là del consenso di cui gode negli ambienti del partito dell'AKP? C'è chi pensa che non sia la posizione giusta per la Turchia questo sviluppo nei confronti di Israele e così vicino a Teheran, oppure no, Marta? Allora, anzitutto c'è da dire che i rapporti con Israele sono molto difficili da circa 3 anni. Diciamo che dopo i fatti di Gaza c'è stata un'accelerazione nel deterioramento dei rapporti con Israele, ma per, ecco, come la vedo io che vivo in Turchia ormai da quasi 5 anni, mi sembra che Erdogan fosse ben più tempo che stesse cercando di rendere i rapporti con Israele molto più, diciamo, difficoltosi. Per quanto riguarda il protocollo firmato con l'Iran, il fatto secondo me più negativo è che la stampa turca ha venduto ai suoi lettori questo protocollo come un accordo storico, quando invece d'accordo storico proprio non si tratta. Basti pensare che Teheran, subito dopo la firma, in barba proprio all'accordo siglato, ha detto: beh, no, intanto l'uranio che ci rimane in casa continuiamo ad arricchirlo lo stesso. Quindi, insomma, il problema qual è? Il problema è che molto spesso Erdogan usa l'arma di Israele anche per compattare il consenso interno, che è un dato, insomma, che ci deve fare anche riflettere in qualche maniera. Sembra che il sentimento di vicinanza della Turchia al popolo palestinese sia l'unica cosa in questo momento in grado di compattare il paese. Erdogan lo ha capito perfettamente e chiaramente, anche tenuto conto dei suoi convincimenti politici e religiosi, usa quest'arma anche per aumentare il suo consenso interno all'interno della Turchia. Bene, ora iniziamo ad alternare insieme ai nostri ospiti, poi torniamo da Fiamma Nirestan e qualche ascoltatore. Cominciamo con Piero dalla provincia di Piacenza. Sì, buongiorno a voi, agli ascoltatori e ai suoi ospiti. Insomma, qui non bisogna stravolgere la verità delle cose. Quando Israele sbaglia, bisogna dire che Israele ha sbagliato. Non si tratta di essere antisemiti. Israele ha aggredito delle navi in acque internazionali. Sono stati uccisi almeno 9 persone e non si può dire che chi gli aggrediti hanno sbagliato e invece gli assassini hanno ragione, altrimenti non si viene a capo di niente. Insomma, lei ha fatto una presentazione veramente stravolgendo le cose, dando dei cosiddetti pacifisti, ma insomma non si può andare avanti così. E poi ha visto, perdoni, ha visto le immagini a bordo? Lei cosa farebbe se qualcuno le salisse sulla nave armato fino ai denti e alla fine i fatti poi sono stati ammazzati 9 ed israeliano non è stato ammazzato nessuno, quindi i fatti parlano chiaro. Insomma, lei pensa, se voglio un incidente di fronte a una zona internazionalmente chiusa come Gaza, organizzo esattamente quella cosa, e quando vengono militari di Israele a bordo con armi che all'inizio si capisce chiaramente sono non per uccidere, tant'è vero che poi dopo avviene la reazione sicuramente incontrollata, fatta malissimo, io condanno ai morti, ma la cosa che mi colpisce è che lei dica quelli sono pacifisti. Come si fa a mettere in dubbio che sono pacifisti? Ma lei ha visto quali sono le reazioni quando arrivano i primi che scendono dalle corde? Perché se quella è la reazione dei pacifisti, può essere che io debba stracciare, debba essere espulso dalla categoria dei giornalisti, perché quella a me non sembra. Però ripeto, e ho scelto apposta la sua come prima telefonata perché vedo che moltissimi, probabilmente la maggioranza di quello che sono in ascolto, la pensano come Piero, la provincia di Piacenza, ed è giustissimo che io mi metta umilmente al servizio della vostra opinione, non è la mia, Però la mia opinione è che è stata una deliberata provocazione di chi è riuscito a mettere Israele nell'angolo e l'errore capitale di chi ha pianificato tecnicamente quell'operazione militare è stato quello di ottenere un esito che ha assolutamente assecondato Hamas e chi vuole la morte di Israele e degli israeliani. Questa per me è una questione che non si riduce all'equità tra due punti di vista, però vi sbaglio io. Mario dalla provincia di Grosseto. Buongiorno. Volevo, ritengo che l'inizio, come è stato impostato il tutto, cioè questo, mi sembra piuttosto capzioso questo collegamento fra il prete morto ammazzato dal suo autista e la nave. Vorrei far rilevare che in generale si interviene quando ormai la situazione è esplosa, cioè il problema di Gaza esiste da lunghissimo tempo. Il problema se parlare con Hamas o non parlarci, dato che in fin dei conti esiste, sta lì, e probabilmente la politica migliore sarebbe stata fin dall'inizio cercare un qualche tipo di coinvolgimento. Il problema della Turchia che è stata allontanata dall'Europa sono tutti problemi che sono a monte di quanto è accaduto in questo momento. Certo. E intervenire in questo momento diventa estremamente complicato, perché cioè, noi potremmo, Israele secondo me erra nel effettuare delle azioni odiose, non so, per esempio si sa per dati statistici veri che nelle carceri di Israele per esempio sono detenuti, il 15% dei detenuti sono minorenni, fra cui un cospicuo numero di ragazzini sotto i 14 anni. Ora dico, tutte le famiglie e tutte le persone che girano intorno a questo nucleo di giovani arrestati, detenuti senza diritto di difesa eccetera eccetera, crea sicuramente un odio verso coloro che hanno operato questa cosa, cioè la volontà di annullare Israele non nasce così perché improvvisamente questi qua sono antipatici, è una cosa che si è creata nel tempo e dove la comunità internazionale, probabilmente spinta da coloro che hanno interesse che esistano punti di tensione ovunque, perché fa bene a chi commercia armi, fa bene a chi vuole mantenere l'economia di certe aree instabile, a cominciare da Cipro ad esempio, dove non si capisce perché non riescono a unificare. Cioè, quindi c'è, secondo me, grosso interesse che quell'area non si pacifici. Ma questo sono completamente d'accordo con lei. Nel dire che c'è grande interesse, però cosa bisogna chiedere? Che Israele tratti su piede paritario chi ha come programma il suo sterminio. E questo è quello che voi dite. E io su questo non capisco come si possa essere d'accordo. Come si possa mettere sullo stesso piano il regime di Teheran e il regime di Israele. Ed è questo da sempre imbarazzo in cui si riduce chi come me vi chiede, se siete in ascolto, se avete davvero un'idea che Israele sia questo paese di persecutore di bambini senza diritti. Quale Israele conoscete, mi chiedo io? Ma non lo so, quello che ho visto io recandomi tante volte è un paese pieno di difetti in cui la gente non fa altro che pensare diversamente, dibattiti su ogni cosa e così via. Santo Dio, però è un paese che dal 1947, prima che potesse davvero prendere atto che la comunità internazionale gli aveva dato il diritto di esistere, ha visto da nord, da sud, da est, da ovest arrivare gente che diceva: voi non esistete, vi uccideremo nel vostro stesso sangue. Non lo so quale altro paese è debba convivere da prima del suo giorno stesso di esistenza con questa minaccia. E noi diciamo incessantemente a Israele: chi vi vuole uccidere conta come voi ai nostri occhi. Eccoci tornati in studio, due ancora solo ascoltatori e poi la conclusione a Fiamma Nierenstein. Sentiamo come la pensa Piero da Roma. Prego Piero. Buongiorno, sono Piero Abbina, io mi occupo di una università israeliana, il Technion di Haifa, che è il più grosso politecnico che esiste in Israele, dove abbiamo 13.000 studenti, al cui interno convivono pacificamente, tendo a sottolineare pacificamente, studenti ebrei israeliani, studenti musulmani israeliani, studenti palestinesi che non sono israeliani, e che tranquillamente studiano insieme, cioè in un posto dove nessuno vuole ammazzare l'altro, c'è una convivenza assolutamente pacifica. Questo tecnico è a Haifa, dove tutte le case devono avere per legge una camera antibomba, dove abbiamo costruito adesso un nuovo ospedale pediatrico, dove un'intera ala, quella che è rivolta verso il Libano, è rinforzata per evitare i missili che arrivano dal Libano. Grazie a Piero per questa testimonianza, che mi sembra, insomma, comunque stiamo anche critici, perché non vorrei che poi pensasse che stiamo scegliendo telefonate a favore, assolutamente no, sono nella stragrande maggioranza tutte ipercritiche verso il conduttore, le tesi che abbiamo ascoltato. Sentiamo Salvatore da Bologna, prego Salvatore. Salve, buona giornata. Volevo ricordare che martedì 8 giugno saranno 43 anni dall'attacco della USS Liberty, una nave che venne attaccata in acque internazionali dall'aviazione israeliana. Sì. Era una nave spia americana. Sì. Che stava monitorando la guerra dei sei giorni. Esatto. E niente, e praticamente la USS Liberty è stata la nave con le più alte decorazioni mai avute da una nave della Marina americana. Ma ho capito, però quella era un'azione di guerra contro gli Stati Uniti? Beh, contro gli Stati Uniti, scusi, non so se è chiaro. Israele, se c'è una guerra in corso, chi non lo asseconda ma lo spia lo considera un amico, anche se sono gli Stati Uniti. Che domanda mi fa? È un fatto noto quello della US Liberty. O pensa che gli israeliani in quel caso attentano addirittura alla maggiore potenza così, fischiettando? Non lo so. Comunque, anche agli Stati Uniti, no. Allora, gli israeliani sono dei matti che sparano dagli Stati Uniti fino agli islamisti. D'accordo, anche questo può essere che io sappia leggere i libri di storia. Sentiamo Lucio da Padova, prego Lucio. Ecco, buongiorno, volevo dire, essendo israeliano, che ho vissuto tanti anni là, Israele, stiamo parlando di un Stato che vive e la sua realtà. Quando c'è la guerra del 67 tutto il mondo ci ha lasciato da soli, un piccolo paese contro tutti gli arabi. Abbiamo vinto, per carità, però che adesso arrivano dei crociere con persone autocertificate come pacifisti, noi non possiamo fidare che siano americani, che siano italiani, che siano turchi, perché le politiche cambiano facce, come abbiamo visto con la Turchia, come una volta Israele amica dell'Iran, era grande amica dell'Iran. Cambiato la politica, cambiano le cose, ma non si può negare che tutto quanto è soltanto per un motivo. Gli arabi hanno il petrolio, finché gli arabi hanno il petrolio tutto il mondo cercherà di accomodarli. Grazie Lucio, io consegno la conclusione a Fiamma Nierenstein, perché è sempre così complicato tentare di rappresentare un punto di vista minoritario, perché si passa per estremisti. Beh, come quindi. Oscar, ti hai detto tante cose durante questa, tutte molto interessanti e molto sensate, dall'altra parte invece questa aggressività che poi si sente in tante telefonate e in tante reazioni, sembra a me una sconfitta pesante e dolorosa del senso comune e della lungimiranza di questa Europa e di questa Italia, ed è per questo che mi dà tanto dolore, non tanto perché attacca Israele, quanto perché proprio attacca se stessa in questo modo, non volendo vedere la verità. Quindi io torno per un attimo ai basilari, alle colonne portanti di questa cosa. Gaza è stata sgomberata da Israele con un sacrificio gigantesco. Io da giornalista della Stampa ho seguito minuto per minuto, dormendo sulla sabbia di Gaza, vedendo lo sgombero di questa povera gente che stava lì. Furono consegnati ai cittadini di Gaza delle magnifiche strutture sia industriali che agricole, per vedere di fare di questo territorio una fiorente zona libera, tutta quanta nelle mani dei palestinesi, in maniera che fosse un primo esempio di contiguità territoriale amichevole e totalmente scevra di presenza militare. Ciò che accadde, lo vidi con i miei occhi, fu innanzitutto il rogo sia delle serre che delle strutture industriali che delle sinagoghe, che furono picconate e distrutte, così come furono picconate e distrutte anche gli edifici rimasti in piedi. Dopodiché ci sono state una serie di consecutive azioni in cui poi nel 2007, con un colpo di Stato contro Fatah, cioè il gruppo non radicale dei palestinesi, quello capitanato da Abu Mazen, Hamas si impossessò di questa area, buttò di sotto dai tetti gli uomini di Fatah, fucilò in mezzo a una strada. Tieni conto che per molti invece Hamas è una forza che ha vinto delle libere elezioni qui da noi, quindi. Ha detto qualcosa? No, dicevo che tieni conto che per molti da noi in Italia, per molti anche dei nostri ascoltatori, Hamas è un partito che ha vinto delle libere elezioni. Non è così. Hamas ha buttato fuori Fatah con un colpo di Stato nel 2007. Questo chiunque si vada a vedere, basta cercare su Google, insomma, o su qualsiasi testo che ricordi l'avvenimento, e anche persino nei miei articoli, ecco, ovunque. Questa è una testimonianza che si trova ovunque. Quindi Gaza non è quel partito liberamente eletto con cui tutti dicono, siccome ha avuto questa consacrazione democratica bisogna poi parlare, cosa che poi non sarebbe vera in nessun caso, perché non è che se uno vince le elezioni, se le vince per distruggere la democrazia, esatto. Nel caso per esempio in Iran, va bene, il partito degli Ayatollah, allora diventa di per sé legittimato. Nel caso di Hamas però la cosa è ancora più evidente, perché lì ci fu una strage di uomini di Fatah costretti a fuggire. Da quel momento la popolazione di Gaza, in un regime militarizzato e islamico fino all'estremo, aiutato dall'Iran in questa sua opera di costruzione di un armamento capace di arrivare con i suoi missili fino a Tel Aviv, è stato incrementato proprio da tutte le organizzazioni terroristiche. Purtroppo la Turchia si è fatta sponsor di Hamas in modo molto circostanziato e determinato, che ora non voglio annoiare gli ascoltatori. Aspetta, io ti devo ma anche questo è molto facilmente ti devo interrompere, perché su questo ti devo interrompere, perché è evidente che noi abbiamo bisogno di un supplemento di approfondimento dopo questa puntata, e lo dico sinceramente a tutti gli ascoltatori, perché temo di capire che il confronto tra chi, come Fiamma Nera, si documenta da anni con la sua presenza, gli sviluppi di quell'area, la politica del nostro paese, la disattenzione dell'Europa rispetto a sviluppi che io temo potrebbero essere tragici in quell'area, molto più di queste terribili 9 vittime, che condanno ovviamente, perché molti pensano io stia inneggiando ai 9 morti, questo ci obbliga a fare altre trasmissioni. Questo è un impegno che non prendo mai, ma su questo mi pare di capire che sia veramente il caso. Oggi abbiamo sbordato rispetto ai nostri limiti temporali, grazie in regia a Carmelo Lauricella, grazie a Fiamma Nera, grazie a Roberta Pinotti, grazie a Marta Ottaviani, grazie a voi tutti per la pazienza con cui ci avete ascoltato, grazie a Alessandro Marcotun in redazione, linea Generale Radio, appuntamento a lunedì.